In altre lettere espresse la sua gratitudine per colui che l'aveva guidata attraverso tante difficoltà, tante prove dolorose, tante perplessità. Tuttavia provava quello che provano molte donne riflessive quando il primo fiore di una svagata gioventù è appassito. Sentiva uno strano sottofondo di malinconia nell'annunciare il suo fidanzamento, perché preoccupazioni e timori si intrecciavano alle speranze. Le diede un vero sollievo la convinzione del grande piacere che suo padre prendeva nel pensare a tutti i preparativi del matrimonio. Desiderava che ogni cosa procedesse speditamente e prendeva grande interesse in tutte le piccole modifiche richieste dal prossimo ingresso nella canonica di Mr. Nichols, quale marito della figlia. La convivenza era resa necessaria dall'avanzata età di Mr. Bronte e dal continuo indebolimento della sua vista che imponeva a una figlia affettuosa qual era Charlotte di provvedere alle necessità del padre con la sollecitudine di sempre. Da parte sua, Mr. Nichols sperava che la sua presenza sarebbe stata fonte di conforto e di piacere per il vecchio ecclesiastico che lo sapeva pronto ad intervenire in ogni evenienza. Nei primi giorni di maggio Miss Bronte si assentò per andare a fare tre visite. La prima fu da noi. Si fermò solo 3 giorni, poiché doveva recarsi nei dintorni di Leeds per fare alcune compere in vista del matrimonio. I suoi preparativi, disse, non potevano essere né costosi né complessi, consistendo principalmente in un modesto rifornimento del suo guardaroba e nel ritappezzare e nel ridipingere alcune pareti della canonica. E soprattutto trasformare la piccola stanza di passaggio, fino a quel giorno utilizzata come disimpegno, che si trovava dietro il suo soggiorno, in uno studio per il marito. Pensava molto a questo e ad altri progetti per garantirgli ogni comodità, senza disturbare il padre. Ne parlammo insieme con la stessa instancabile soddisfazione che penso sia di tutte le donne quando discutono di queste cose, specialmente se problemi di denaro richiedono quelle astuzie di cui Charles Lamb parla nel suo saggio sulla porcellana antica, dove svela quanto contribuiscano al piacere di possedere finalmente la cosa desiderata. Haworth, 24 maggio. Da quando sono tornata a casa sono stata impegnata a cucire. La piccola stanza rinnovata è in perfetto ordine e le tende bianche e verdi sono a posto. Si intonano perfettamente con la tappezzeria e danno un'impressione di pulizia e ordine. Ho ricevuto 1 o 2 giorni fa una lettera di Mr. Nichols che annuncia il suo arrivo per domani. Sono preoccupata per lui e su un punto più preoccupata di quanto osi ammettere. Sembra che abbia nuovamente sofferto per un'acuta crisi reumatica. Non l'ho saputo da lui, ma altri me ne hanno informata. È stato male mentre ero a Manchester e a B. Non se n'è assolutamente lamentato con me, non vi ha nemmeno fatto allusione. Ahimè, pensava di essere definitivamente guarito e so quanto questa delusione lo rattristerà. Desiderava così ardentemente che questo malanno non diventasse cronico, per non essere di peso a nessuno. Ma venga quello che deve venire, e Dio aiuti e dia forza a lui e a me. Aspetto il domani con un insieme di impazienza e di ansia. Mr. Bronte ebbe una leggera malattia che allarmò molto la figlia. Inoltre il peso e le preoccupazioni dei preparativi domestici premevano su di lei, non sgradevolmente, ma tali da assorbire tutto il suo tempo. Durante parecchi giorni fu troppo occupata per aprire il pacco giunto da Halifax con il corredo, ma non tanto da non prendere provvedimenti per facilitare il viaggio di Miss Fuller, che le sarebbe stata vicina nel giorno del matrimonio. Oggi ho scritto a Miss Fuller. Non sarebbe meglio, cara, se tu e lei combinaste di venire a Haworth nello stesso giorno, arrivando a Keighley col medesimo treno e dandomi così modo di ordinare la vettura di aspettarvi alla stazione e di portare insieme con voi il vostro bagaglio? Con questo gran caldo non c'è nemmeno da pensare che veniate a piedi. A tu, che lei. E so che lei si ostinerebbe a farlo se lasciata a se stessa e arriverebbe qui mezza morta. Ho pensato che fosse meglio parlare con te di questa combinazione e se ti andasse a genio lasciare che tu ti intenda direttamente con Miss Fuller circa l'ora, eccetera, per poi informare me perché posso ordinare la carrozza. Mr. Nichols è un uomo gentile, pieno di considerazione. Mr. Nichols è un uomo gentile, pieno di considerazione. Nonostante tutti i difetti tipicamente maschili, accetta il mio desiderio di una cerimonia semplicissima, con così buona grazia da ispirarmi gratitudine. E se nessuno interverrà a rovinare il suo programma, sistemerà ogni cosa in modo che non un'anima qui a Haworth sia messa al corrente della data. È anche così pieno di considerazione per le signore, ossia per te e per Miss Fuller. Ha anticipato le disposizioni che mi preparavo a dare per la vostra partenza a cerimonia compiuta. Lui e Mr. S. giungeranno la sera dell'antivigilia. Scrivimi due righe per farmi sapere che ci sono. Il giorno del matrimonio saranno in chiesa alle 8 in punto e noi li raggiungeremo lì. Mr. e Mrs. Grant sono invitati a colazione, non alla cerimonia. La data del matrimonio era fissata per il 29 giugno. Le due amiche giunsero alla canonica di Haworth per il giorno prima. Il lungo pomeriggio e la lunga serata furono occupati dalle minuziose disposizioni date da Charlotte affinché nulla mancasse al benessere del padre durante la sua assenza da casa. Quando ogni cosa fu sistemata, i bauli fatti, la prima colazione ordinata, l'abito per la cerimonia scelto e tirato fuori, proprio all'ora di andare a letto, Mr. Bronte annunciò l'intenzione di rimanere a casa mentre gli altri si recavano in chiesa. Cosa si poteva fare? Chi avrebbe, secondo il rituale, consegnato la sposa allo sposo? Dovevano essere presenti solamente l'ecclesiastico officiante, gli sposi, la damigella d'onore e Miss Fuller. Fu consultato il libro di preghiere e vi si trovò che la tradizione ingiunge che il ministro riceva la donna dalle mani del padre o da mani amiche e che nulla era specificato circa il sesso della persona. Così Miss Fuller, sempre gentile in qualsiasi emergenza, si offrì per consegnare la sua antica alunna al marito. La notizia della cerimonia nuziale che si stava svolgendo era trapelata prima che il piccolo gruppo lasciasse la chiesa e molti vecchi amici aspettavano la sposa all'uscita e la videro comparire simile a un bucaneve, come dissero poi. Il suo vestito era di mussolina bianca ricamata, con una mantiglia di pizzo e un cappello a cuffia bianco guarnito con foglie verdi, che forse possono aver suggerito la similitudine col pallido fiore invernale. Mr. Nichols la condusse in Irlanda per farla conoscere ai suoi parenti e agli amici. Fecero un giro a Zillane, Glengariff, Tarbet, Tralee e Cork. Alla vista di paesaggi di cui disse che superavano ogni immaginazione. «Devo dire che i miei nuovi parenti mi piacciono», scrisse. «Anche il mio caro marito nel suo paese appare in una nuova luce. Più di una volta ho avuto il profondo piacere di udirlo lodare da ogni parte». Alcuni dei dipendenti e dei vecchi servi della famiglia mi dicono che sono fortunatissima perché ho sposato uno dei migliori gentiluomini del luogo. Spero di essere debitamente grata a Dio, che mi ha illuminata nel fare quella che sembra una scelta giusta e prego di essere capace di ricambiare come dovrei l'affettuosa dedizione di un uomo sincero e degno di essere onorato. Da questo momento in poi, le sacre porte del focolare domestico si chiudono sulla sua vita matrimoniale. Noi, le sue affezionate amiche, da lontano avvertiamo qualche bagliore di felicità, alcuni sussurri calmi e piacevoli che rivelano la gioia della vita che si svolgeva all'interno. Ci scambiavamo uno sguardo contento, sussurrando con tenerezza. Dopo una dura e lunga lotta, dopo molte preoccupazioni e amari dolori, ora sta gustando la felicità. Pensavamo alle lievi asprezze del suo carattere e a come si sarebbero tramutate in una piena e matura suavità in quella calma e soleggiata pace domestica. Ricordavamo le prove attraverso le quali era passata e gioivamo al pensiero che Dio aveva giudicato opportuno asciugare le sue lacrime. Quelli che la vedevano notavano nell'aspetto esteriore un cambiamento che indicava quello interiore e noi la pensavamo e speravamo e prevedevamo un futuro felice nel grande amore e rispetto che nutrivamo per lei. Ma le vie del Signore non sono le nostre. Tuttavia, ecco alcuni dei sussurri di felicità che noi che ascoltavamo udimmo. Veramente mi sembra di aver avuto a malapena un momento di libertà da quella quieta mattina di giugno quando lei e io scendemmo verso la chiesa di Haworth. Non che io sia stanca o oppressa, ma il mio tempo non mi appartiene più. Un altro ne esige una buona parte e dice dobbiamo fare così e così e naturalmente facciamo così e generalmente la cosa risulta essere quella giusta. Abbiamo avuto molte visite di gente venuta da lontano e ultimamente svariate occupazioni per preparare un piccolo trattenimento nel villaggio. Tanto Mr. Nichols che io desideriamo molto contraccambiare il cordialissimo benvenuto e la generale buona volontà dimostrata dai parrocchiani al suo ritorno. Così gli scolari dei giorni feriali e quelli domenicali, insieme coi loro insegnanti, i campanari, i cantori, eccetera, in numero di 500 sono intervenuti a prendere il tè e poi a cenare nell'aula scolastica. Sembra che se la siano goduta un mondo. e fu veramente piacevole vederli tanto soddisfatti. Uno degli abitanti del villaggio, bevendo alla salute di mio marito, lo descrisse come un vero cristiano e un vero gentiluomo. Confesso che queste parole mi toccarono profondamente e che pensai, come so che avrebbe pensato lei se fosse stata presente, che il meritare e l'ottenere una simile qualifica val meglio che conquistare ricchezza, fama e potere. Io sono pronta a sottoscrivere questa chiara e semplice lode. Il mio caro padre non era in buona salute quando tornammo dall'Irlanda, tuttavia ho il grandissimo piacere di poter dire che ora sta meglio. Possa Dio conservarlo ancora per lunghi anni. Il desiderio di vederlo continuare in buona salute e la preoccupazione per il suo benessere e per la sua salute sembrano, e ne capisco il perché, essere ancora più forti in me che non prima del mio matrimonio. Papà non ha più svolto alcun incarico da quando siamo ritornati e ogni volta che vedo Mr. Nichols indossare l'abito talare e la cotta, mi sento confortata al pensiero che questo matrimonio ha garantito a papà un valido aiuto nella vecchiaia. 19 settembre. Sì, rendo grazie al cielo di poter dire che la salute e il morale di mio marito sono migliorati. Mi dà una profonda soddisfazione udirlo ogni tanto e esprimere la sua felicità in brevi, semplici frasi improntate di sincerità. Le mie giornate sono più occupate di quanto non lo fossero prima. Non ho molto tempo per pensare. Sono costretta ad essere più pratica perché il mio caro Arthur è un uomo molto pratico, puntualissimo e metodico. Ogni mattina alle 9 è presente a scuola, fa istruzione religiosa ai ragazzi fino alle 12:30, quasi ogni pomeriggio fa visita ai parrocchiani poveri, naturalmente trova sempre qualche lavoruccio da affidare a sua moglie e spero che a lei non rincresca di aiutarlo. Penso che non sia una cattiva cosa per me che egli sia portato così fortemente verso le cure della vita quotidiana e le attività di utilità pratica e così poco incline verso quanto è letterario e contemplativo. In quanto al suo continuo affetto e alle sue gentili attenzioni, non mi sembra giusto il parlarne molto, ma non cambiano e non diminuiscono mai. La sua amica e damigella d'onore andò a far loro una visita in ottobre. Avrei dovuto andarvi anch'io, ma permisi ad alcuni ostacoli di frapporsi e ormai lo rimpiangerò per sempre. Non dico nulla a proposito della guerra, ma quando ne leggo gli orrori non posso impedirmi di pensare che è una delle peggiori maledizioni che possano cadere sull'umanità. Spero che non duri a lungo, perché in verità mi sembra che tutta la gloria che ne possa venire non potrà mai compensare le sofferenze che inevitabilmente cagiona. Così scriveva Charlotte. Quanto scrivo può sembrare poco nobile e poco patriottico, proseguiva, ma penso che a mano che ci avviciniamo alla mezza età, la nobiltà del sentimento e il patriottismo abbiano per noi un significato diverso da quello che avevano quando eravamo giovani. Lei mi chiede gentilmente di papà, sta meglio e sembra riprendere forza a mano che andiamo verso il freddo. In questi ultimi anni ha goduto di una salute migliore nell'inverno. Stiamo veramente tutti quanti benino e per parte mia non ricordo di essere stata così a lungo relativamente immune dal mal di capo, come durante questi ultimi 3 mesi. La mia vita è diversa da quanto fu solitamente in passato. Dio mi aiuti a essergliene debitamente grata. Ho un marito buono e gentile che mi vuol bene e di giorno in giorno il mio attaccamento per lui aumenta. Nel tardo autunno Sir James Kay Shuttleworth attraversò il confine collinoso che separa il Lancashire dallo Yorkshire per trascorrere 2 o 3 giorni insieme a loro. In quel tempo a Mr. Nichols fu offerta la gestione di una parrocchia che garantiva un reddito di gran lunga superiore al compenso che riceveva come curato di Haworth. La proposta era vantaggiosissima da tutti i punti di vista, ma egli si sentiva moralmente legato a Haworth fino a quando Mr. Bronte fosse rimasto in vita. Questa offerta non di meno procurò a sua moglie un vero piacere poiché dava prova dell'alta considerazione in cui il marito era tenuto. 29 novembre. Avevo l'intenzione di scriverti 2 righe ieri, ma proprio mentre stavo per farlo, Arthur mi ha chiamata per andare a fare una passeggiata. Ci incamminammo senza l'intenzione di andare lontano. Benché tirasse vento e fosse nuvoloso, fuori era bello, e quando fummo a circa 1 miglio da casa sulla brughiera, Arthur suggerì di arrivare fino alla cascata. Pensava che dovesse essere bellissima dopo lo scioglimento della neve. Avevo sempre desiderato di vederla in tutta la sua forza invernale, così procedemmo. Era bellissima, davvero, un vero e proprio torrente che scorreva impetuoso sulle rocce bianco di spuma. Incominciò a piovere mentre lo contemplavamo e tornammo a casa sotto un vero e proprio diluvio. Tuttavia non so dire quanto ho goduto quella passeggiata e per nulla al mondo avrei voluto perdere lo spettacolo cui ti ho accennato. Quella passeggiata di 7-8 miglia sotto il diluvio non fu senza conseguenze. Quasi subito dopo il suo ritorno a casa fu scossa da brividi e a dispetto di ogni precauzione soffrì di un brutto, ostinato mal di gola che la indebolì e la fece dimagrire. Ti ho detto che la nostra povera Flossie è morta. Stette male per un solo giorno e morì quietamente durante la notte, senza soffrire. La perdita di un cane è sempre molto triste. Tuttavia nessun cane ebbe mai una vita più felice o una morte più facile. Il giorno di Natale si recò a piedi col marito dalla povera vecchia che in giorni meno felici le aveva chiesto di andarle a cercare un vitello che si era smarrito, portandole un grosso dolce di zenzero per rallegrarle il cuore. Il giorno di Natale molte umili tavole in Haworth furono allietate dai suoi doni. Nei primi giorni dell'anno nuovo, 1855, Mr. e Mrs. Nichols si recarono in visita a Sir James K. Shuttleworth a Gawthorpe. Vi si trattennero solamente 2 o 3 giorni, ma si diede il caso che Charlotte aggravasse l'ostinato raffreddore latente con una lunga passeggiata su un terreno umido, calzando scarpe leggere. Quasi subito dopo il ritorno a casa fu assalita da una nuova sensazione di perpetua nausea e da ricorrenti svenimenti. Dopo che questa condizione di salute l'ebbe afflitta per un certo tempo, cedette alle insistenze di Mr. Nichols che desiderava farla visitare da un dottore. Lo mandarono a chiamare, venne e dichiarò che le condizioni della paziente dipendevano da una causa naturale. Charlotte, che era sempre stata paziente nella malattia, tentò con tutte le forze di sopportare e di tirare avanti. Ma la terribile nausea andava peggiorando di giorno in giorno fino al punto che la semplice vista del cibo le rivoltava lo stomaco. Uno scricciolo sarebbe morto di fame con quello che mangiò nelle ultime 6 settimane, disse qualcuno. La salute di Tabby era all'improvviso crollata completamente. Morì in quei giorni di desolazione e di ansia per l'unica figlia sopravvissuta di quella famiglia che aveva servito così a lungo. Marta assisté teneramente la padrona, tentando di quando in quando di rallegrarla col pensiero del bambino in arrivo. «Confido che in futuro ne sarò lieta», rispondeva lei, «ma ora sto così male, sono così stanca». Finì col non lasciare più il letto, troppo debole per mettersi a sedere. Da quell'estremo giaciglio scrisse 2 biglietti a lapis, il primo senza data e indirizzato alla sua carissima Nell. Devo scriverti una riga da questo mio squallido letto. La notizia della probabile guarigione di M mi è giunta come un raggio di sole. Non ti parlerò delle mie sofferenze, sarebbe inutile e penoso. Voglio darti un'assicurazione che lo so ti conforterà. Eccola. Trovo in mio marito il più tenero degli infermieri, il più affettuoso sostegno, il miglior conforto terreno che una donna abbia mai avuto. La sua pazienza non viene mai meno, pur essendo messa alla prova da giornate tristi e notti dal riposo interrotto. Scrivi e dimmi del caso di Mrs. Quanto a lungo è stata malata e di che male? Papà, grazie a Dio, sta meglio. La nostra povera Tabby è morta e sepolta. Saluta affettuosamente per me, Miss Fuller. Possa Dio confortarti e aiutarti. Charlotte Bronte Nichols. L'altro, anch'esso in debolissimi caratteri a lapis, fu per la sua ex compagna di scuola a Bruxelles. 15 febbraio. La tua lettera deve avere poche righe di riscontro, sia che stia bene che male. Sono costretta a letto, e lo sono già stata da alcune settimane. Prima di questo momento avevo goduto di un'eccellente salute. Mio marito ed io viviamo in casa di mio padre. Naturalmente non lo avrei potuto lasciare. Sta benino, meglio che la scorsa estate. A me sembra che al mondo non possa esservi un marito più gentile e migliore del mio. Nulla mi manca ora in quanto a piacevole compagnia nella buona salute e a tenerissima assistenza nella cattiva. Simpatizzo profondamente in tutto quanto mi dici riguardo al dottor W. e alle ansietà della tua eccellente madre. Confido che non vorrà correre il rischio di una seconda operazione. Non posso scrivere più a lungo per ora. Sono assai malandata e molto debole. Dio vi benedica a tutti. Tua affettuosamente, Charlotte Bronte Nichols. Non credo che abbia mai scritto un'altra riga dopo queste. Lunghe giornate e lunghe notti trascorsero Sempre la stessa nausea ostinata, la stessa debolezza sopportata con fiduciosa pazienza. Verso la terza settimana del mese di marzo si produsse un cambiamento. La dominò un lento, vaneggiante delirio nel quale chiedeva costantemente cibo e perfino stimolanti. Ora inghiottiva avidamente, ma era troppo tardi. Uscendo per un istante dallo stupore, scorse il viso del marito distrutto dal dolore e percepì il suono di alcune parole che imploravano Dio di risparmiarla. Oh, sussurrò. Non sto per morire, vero? Non ci vorrà separare, siamo stati così felici. Il 31 marzo di prima mattina, i solenni rintocchi della campana a morto della piccola chiesa annunciarono agli abitanti del villaggio che l'avevano conosciuta quando era una bimbetta, che ella non c'era più, e i loro cuori si strinsero al pensiero dei due uomini che sedevano soli e desolati nella vecchia canonica grigia. Capitolo 14. Sono sempre stata vivamente colpita leggendo la vita di Goldsmith scritta da Foster, dalla descrizione della scena alla morte del romanziere. Si dice che le scale della casa di Brick Court fossero affollate dai dolenti che appartenevano a tutt'altro ceto di quello borghese, donne prive di qualsiasi domicilio, senza fissa dimora, senza amici, all'infuori di colui che erano venuti a piangere, reprobi di quella grande, solitaria, malvagia città verso i quali egli non aveva mai dimenticato di essere gentile e caritatevole. Queste righe mi vennero in mente quando ebbi notizia di alcuni particolari del funerale di Charlotte. Poche persone, oltre a quelle che abitavano fuori della cerchia delle colline che chiudono il villaggio di Haworth, sapevano che colei, che nazioni lontane lodavano in quella mattina di Pasqua, giaceva sul letto di morte. Il maggior numero dei suoi parenti si trovava già nella stessa tomba dove stava per essere deposta. I due rimasti, impietriti dal dolore, non desideravano il contatto con estranei. Di ogni famiglia della parrocchia un solo membro era stato invitato a partecipare al funerale. In molte povere case la scelta di chi dovesse offrirle ufficialmente l'ultimo omaggio richiese un gesto di vero altruismo da parte di quelli che accettarono di essere esclusi dal corteo e affollarono la chiesa e il cimitero per veder trasportare e deporre a fianco dei suoi e delle sue sorelle colei che solo pochi mesi prima avevano vista, bianca e pallida sposa, iniziare con trepida speranza, una nuova vita. Fra gli umili che piangevano appassionatamente vi era una ragazza che pochi mesi prima, dopo essere stata sedotta, aveva trovato un'amorosa sorella in Charlotte che, dandole protezione e consigli, aiutandola con la parola, comunicandole forza, aveva provveduto alle sue necessità. Amarissimo fu il dolore di questa povera giovane quando seppe che l'amica era ammalata, in pericolo di vita, ne porta il lutto nel cuore ancora oggi. Un'altra giovane cieca che abitava a circa 4 miglia da Haworth nutriva un così grande amore per Mrs. Nichols, per Charlotte, che implorò con fiumi di lacrime e suppliche insistenti quanti la circondavano, chiedendo di essere guidata lungo i sentieri della brughiera affinché le fosse dato di udire le ultime solenni parole del funerale. Terra alla terra, cenere alla cenere, polvere alla polvere, con sicura e certa speranza della resurrezione nella vita eterna. Tali furono coloro che accompagnarono Charlotte Bronte alla tomba. Mi rimangono poche cose da dire. Se le mie lettrici trovano che non ho letto, che non ho detto abbastanza, risponderò che di lei ho detto fin troppo. Non posso né misurare né giudicare una personalità quale la sua. Non posso tracciare un quadro esauriente delle sue virtù e dei suoi difetti. Così facendo otterrei un discutibile risultato. Chi la conobbe bene, la Mary di cui parla questa vita, scrive quanto segue della morta amica. Ella tenne sempre in grande considerazione il compimento del dovere, ne ebbe un concetto più alto e più chiaro di quanto ne abbiano molti e vi aderì strenuamente con successo. Lo fece, mi sembra, con maggiore difficoltà di quanta vi trovino persone con nervi saldi e sorte migliore. Tutta la sua vita non fu altro che fatica e pena. Non si liberò mai del fardello che le era stato imposto per ricercare un piacere immediato. Non so che uso lei farà di quanto ho scritto. L'ho scritto col grande desiderio di farla apprezzare, tuttavia, che importanza ha? Lei stessa si appellò al giudizio del mondo con l'uso che fece di alcune sue doti, non le migliori, ma le uniche di cui poteva far beneficiare gli estranei. Questi avidamente godettero il frutto delle sue fatiche e poi giudicarono che meritava grande biasimo per il possesso di queste facoltà. Perché chiedere un giudizio a un simile mondo? Ma io, Elizabeth Gaskell, mi allontano dal pubblico critico e privo di simpatia che giudica duramente perché l'ha visto solo in superficie e non ha pensato a fondo. Mi appello a quel pubblico più numeroso e più solenne che sa come guardare alle mancanze e ai difetti altrui con tenera umiltà. Sa come ammirare generosamente uno straordinario ingegno, come riverire un cuore caldo e pieno di ogni virtù. A questo pubblico affido la memoria di Charlotte Bronte. Fine. Prima di concludere questa registrazione come Devana, vorrei dire che ho vissuto con Elizabeth Gaskell e con Charlotte Bronte tutta l'epopea delle tre sorelle, e che in questo momento, pur sapendo e conoscendo la storia per averla già letta e studiata in abbondanza, sento un vuoto nel cuore profondo, come se Charlotte fosse morta davvero in quest'istante, e come se la presenza quotidiana durante questa lettura di questa donna così straordinariamente buona, gentile, generosa, ma altrettanto intelligente, colta e indomita, fosse stata per me una guida, un lume e motivo di ispirazione che spero di conservare nel cuore, perché in questo momento la commozione mi chiude la gola. E adesso fine per davvero.